cosa hai pensato quando il freddo è entrato dal tuo naso? Cosa hai pensato mentre senza guardarti passavano di fianco? Cosa hai pensato guardando in basso e la salvezza era un punto? Cosa hai pensato quando il debito ha spento i tuoi colori? Cosa hai pensato quando hai chiesto un palmo, un goccio d'aria? Cosa hai pensato quando hai implorato a delle orecchie sorde? Cosa hai pensato quando ti guardavano occhi ciechi? Cosa hai pensato quando hai sbattuto contro un muro di egoismo? Saluti di fianco nell'inarrestabile salinità per la loro meta, quando te bastava poco per la tua discesa verso casa. Ma ora dormirai, dimenticherai di svegliarti fino al giorno che quando hai visto che eri lasciato solo? Cosa hai pensato quando hai sentito il ghiaccio nella carne? Cosa hai pensato quando il mondo è diventato bianco e nero? Cosa hai pensato quando hai capito che il sonno ti batteva? E cosa hai pensato loro guardandoti piegato sul costone o con sotto, dove eri passato senza batter ciglio nel momento esatto in cui ti hanno abbandonato? Così tu dormirai, dimenticherai il ghiaccio di quei cuori che bruciava forse. Sudario!